Fresh Bit di Giulia Crivelli. Hint: Apple hints at next smartphone revolution with iPhone X. Apple lascia intendere quale sarà la prossima rivoluzione negli smartphone con il suo iPhone X. Il lancio del nuovo iPhone ha monopolizzato l'informazione finanziaria e non solo degli ultimi giorni. Non fa eccezione Financial Times, che al nuovo nato dell'azienda fondata da Steve Jobs ha dedicato numerosi articoli. La parola che ci interessa è hints, voce del verbo to hint, regolare, hinted, hinted, che significa nell'accezione più semplice indicare. What are you hinting at? Che cosa mi stai segnalando o suggerendo? L'espressione può avere un significato letterale o figurato. They hinted that there may be job losses. Lasciarono in intendere che avrebbero potuto esserci tagli al personale. I might know something about it, he hinted. Mi fece capire che ne sapeva qualcosa di quella vicenda. Passando al sostantivo, l'espressione to take a hint significa cogliere o non cogliere uno spunto. I thought they would never leave. Some people just can't take a hint. Pensavo che non se ne sarebbero mai andati. Certe persone semplicemente non capiscono cosa sta succedendo. Sarah hoped he'd take a hint and leave her alone. Sarah sperava che lui capisse la situazione e la lasciasse in pace. Hint può avere anche un significato più pratico. A TV channel that gives handy hints on how to save money. Un canale televisivo che dà consigli utili su come risparmiare denaro, o ancora. Hint può voler dire sfumatura, suggerimento sottile. There was more than a hint of sadness in her voice, but he would not listen. C'era ben più di una nota di tristezza nella sua voce, ma lui semplicemente non ascoltava. At first hint of trouble, they left. Al primo segnale di pericolo se ne andarono. Should I drop a hint to Mark about the current situation at home? Dovrei fare in modo che Mark capisse qual è l'attuale situazione a casa, diremmo in italiano. Notiamo, anche se l'abbiamo già fatto, la parola smartphone. Non la traduciamo più, ma letteralmente significa telefono intelligente. A differenza di intelligent, traduzione letterale di intelligente, smart ha in sé una componente di furbizia e viene usato anche per dire che qualcuno si veste nel modo giusto, seguendo i trend, la moda. I like your smart look. That is a smart restaurant.